selvaggio rallenta e cancella i voli da e per Fiumicino, illegale, dice Sacconi. Autostrade, tariffe commisurate agli investimenti, annuncia il ministro Tremonti, che per la crisi promette aiuti alle famiglie. Una vignetta può costare 20 anni di carcere, succede in Birmania, un blogger finisce in manette. 180.000 sono le vittime in crescita dell'usura, lo denuncia Confesercenti. Canali aperti con i rapitori, si lavora per la liberazione delle suore sequestrate in Kenya. Mentre il PD riflette sul Trentino, partono su Facebook le primarie per Bologna. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo andando a Fiumicino, ma prima di tutto con una notizia che è appena arrivata in redazione. Sì, interruzione di pubblico servizio e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in questo caso la precettazione del Ministero dei Trasporti. Queste sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo sulla proclamazione di questo sciopero selvaggio attuato da alcuni piloti e dal personale di volo di Alitalia. La notizia è arrivata proprio pochi minuti fa. Mentre sono ancora in corso, piuttosto stanno terminando forse, le proteste a Fiumicino, Francesca Malaguti, qual è la situazione? Ci sono voli cancellati, ritardi, che cosa succede? Beh sì, dopo il caos di ieri la situazione qui a Fiumicino è ancora di forte disagio per i passeggeri. Ci sono stati 25 voli cancellati oggi e molti sono i voli in ritardo. Un risultato del cosiddetto sciopero bianco di piloti e assistenti di volo che applicano pedissequamente le regole di imbarco per protesta. Qui agli imbarchi internazionali dove mi trovo ora la coda è ancora molto lunga e tanti sono i passeggeri in attesa di sapere che cosa ne sarà del loro volo, anche se rispetto alle lunghe code e i bivacchi di ieri oggettivamente la situazione è migliorata. Francesca, come si è arrivati a tutto questo? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro per spiegare la situazione. Sì, in realtà è esplosa ieri, anche se è da più di una settimana che vengono indette proteste, assemblee, dalle sigle del no, di piloti, assistenti di volo e personale di terra che non hanno accettato di sottoscrivere il documento di CAI che definisce i contratti di lavoro, giudicati dagli autonomi non coerenti con l'accordo siglato a Palazzo Chigi. Allo sciopero selvaggio, però, che è iniziato ieri alle 18, non aderiscono queste cinque sigle che invece si dissociano. L'improvvisa astensione dal lavoro è stata decisa dai CUB e votata da 130 dipendenti in protesta, ma dopo che questi lavoratori sono stati presentati, di fatto questa protesta è rientrata e ora rimangono ritardi e cancellazioni. Grazie Francesca Malaguti. Dunque sembra quasi una protesta della protesta l'accordo con CAI firmato da CGIL, CISL, UIL e UGL. Gli autonomi dicono no e adesso all'interno degli autonomi alcuni scioperano. Bene, limitiamoci all'informazione di servizio. Gli aggiornamenti sulla situazione dei voli li trovate anche su www.ilsole24ore.com. Abbiamo aperto, Alessandra, con la notizia che insomma si andava sul penale per lo sciopero selvaggio di oggi. In qualche modo era stata preannunciata da noi. Sì, era stata preannunciata questa mattina a viva voce dal presidente della commissione di garanzia sugli scioperi, Antonio Martone, che appunto, intervenendo al microfono di Alessandro Milan, aveva parlato di estremi per illeciti penali. Sentiamolo. Dai dati che abbiamo sono 300-400 persone che non solo stanno astenendosi dal lavoro, sia pure senza preavviso e violando le regole, ma se impediscono ad altri di andare a lavorare, oltretutto si creano anche un problema di interruzione del pubblico servizio, quindi anche un illecito penale. L'esempio di ieri è emblematico. Ieri c'è stato uno sciopero pesante, trasporto urbano, trasporto ferroviario, nel rispetto delle regole, quindi non è che si vuole impedire l'esercizio del diritto di sciopero, visto dalla Costituzione, compatibilmente con gli altri diritti dei cittadini. Quanto sta succedendo nel settore del trasporto aereo è al di fuori di ogni legge. Passiamo dalla crisi all'Italia alla crisi internazionale, alla crisi finanziaria, Alessandra. Sì, perché questa mattina il ministro dell'economia Giulio Tremonti alla Camera ha parlato di una crisi in arrivo e in fase di intensificazione. Era alla Camera Tremonti dove, lo ricordiamo, si sta esaminando la legge finanziaria per votare gli emendamenti. Il ministro ha difeso poi la bontà della scelta del governo di anticipare la manovra. Per aiutare l'economia Tremonti parla di un pacchetto che in realtà non è ancora definito se non nelle sue linee generali, che va da un ruolo attivo della Cassa Depositi e Prestiti per realizzare il piano casa, 16 miliardi sbloccati dal CIP, per arrivare ad una modifica tariffaria per le autostrade legata agli investimenti che le stesse società autostradali concessionarie faranno. Per quanto riguarda i conti pubblici, Tremonti ha detto che l'Italia manterrà nei prossimi 3 anni un rapporto fra deficit PIL al di sotto del 3%, dunque perfettamente rispettati i parametri di Maastricht. Maastricht. Sentiamolo. Per l'area dell'euro la media del deficit è 1.3 sul 2008, 1.8 sul 2009, 2% sul 2010. Molti paesi sono in area di deficit eccessivo. In base a questi dati non è questa l'ipotesi fatta per l'Italia. E a proposito di conti pubblici, sono arrivati dati questa mattina dal supplemento di finanza pubblica al bollettino statistico della Banca d'Italia. Ebbene, torna a salire il debito pubblico, che in aprile aveva toccato il record di oltre 1.663 miliardi. Questo record è stato ritoccato in agosto, invece, con 1.667,2 miliardi di euro. Sempre secondo i numeri forniti da Via Nazionale, cresce il gettito fiscale. Nei primi 9 mesi di quest'anno è cresciuto del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2007. Abbiamo parlato di crisi, ebbene anche il dato che emerge dal rapporto di Confesercenti questa mattina sull'usura può essere interpretato come un segnale di crisi. Sentiamo. Nel difficile panorama di crisi dei mercati finanziari c'è una holding che non solo non subisce alcun contraccolpo, ma che vede consolidare il suo impero economico. È la Mafia SPA, con un fatturato complessivo di circa 130 miliardi di euro. È solo uno dei dati preoccupanti che emergono dal rapporto SOS Impresa della Confesercenti sulla criminalità presentato oggi a Roma. Edilizia, rifiuti, filiera agroalimentare, scommesse, divertimento, ristorazione, i segmenti di mercato in cui la mafia investe con proprie aziende. Ma le sue mani si allungano soprattutto nel settore dell'usura, con un giro d'affari intorno ai 15 miliardi di euro, 180.000 i commercianti colpiti. Lino Busà, presidente SOS Imprese. Il governo, le banche, il sistema bancario deve collaborare di più, non solo dal punto di vista del credito, ma anche a dare una mano, perché qualsiasi direttore di banca sa chi sono gli usurai. A essere invischiati nei patti usurari anche piccoli imprenditori, dipendenti pubblici, pensionati, 600.000 persone a cui si aggiungono 15.000 cittadini immigrati. Occorrono reazioni forti, dice Marco Venturi, presidente di Confesercenti. Credo che ci voglia anche un tutor collettivo, per esempio per Saviano, che viene penalizzato, colpito, diciamo, da questa reazione mafiosa, e quindi dobbiamo tutti tutelarlo. L'appello è quello di non rimanere nell'ombra e di collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni. Chi finanzia la mafia, dicono da Confesercenti, non può essere trattato al pari di chi denuncia. Vanessa Colangiuli, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo ora alla vicenda delle due suore italiane che sono state rapite domenica notte in Kenya, nella zona nord del paese al confine con la Somalia. Due canali di comunicazione, uno istituzionale e uno più informale, sarebbero stati attivati per tentare di stabilire un contatto. Questo è quel che si apprende da fonti della MISNA, l'agenzia di stampa missionaria, che hanno chiesto di rimanere anonime per motivi di sicurezza. Suor Caterina Giraudo e Suor Maria Teresa Oliviero hanno 67 e 61 anni, si trovano in Kenya da molti anni e lavorano con i profughi somali. Suor Giraudo, infermiera, lavora soprattutto con i malati di epilessia. Sarebbero le donne dei villaggi a portare avanti il canale informale tra passaparola e informazioni utili per localizzare le suore italiane. Resta però ancora tutto sotto stretto riserbo, lo ha chiesto il ministro degli esteri Frattini, che ha aggiunto che le due religiose potrebbero essere state trasferite dalla zona del rapimento. Il ministro ha aggiunto di non avere ancora precisazioni sull'origine del rapimento, cioè se si tratti di bande criminali comuni oppure di persone legate al fondamentalismo islamico somalo. A Cuneo, intanto, nel convento da cui sono partite le due religiose, si resta in allerta. Chiediamo anche un po' di riservatezza, non sappiamo nulla, né il motivo né dove sono. Voi avete paura in questo momento? Beh, siamo fiduciose anche nella preghiera. Noi, per noi è importante è la fede. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che arriva dal Vaticano e che riguarda in qualche modo le elezioni appena avvenute americane. Come forse saprete, Barack Obama ha intenzione di rivedere il sistema, le leggi per l'uso delle cellule staminali embrionali. Il Vaticano prende posizione, dice il no all'uso di cellule staminali embrionali vale per tutti ed è quindi rivolto anche agli Stati Uniti. Le parole sono del cardinale Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consiglio per la Salute. Salute. In questi giorni forse avrete sentito delle polemiche a distanza fra Carla Bruni e il nostro Presidente del Consiglio relativo alla battuta che Berlusconi ha fatto su Obama. Insomma, la Premier Dama ha dichiarato apertamente il suo appoggio al Presidente eletto degli Stati Uniti, ma sembra che non sia una cosa che riguardi solo Carla Bruni. Assolutamente no, non riguarda solo Carla Bruni e non riguarda solamente il Partito Democratico Italiano, ma insomma in realtà è un po' in tutta la Francia che è scoppiata una sorta di Obama mania. Ce ne parla la nostra Raffaella Calandra, che ha fatto un giro per le strade di Parigi. Yes, we can. Dipinto sullo sfondo della bandiera americana, moltiplicato in stile Andy Warhol, incorniciato in eleganti affiche, ho riprodotto su tazze, magliette e ombrellini il viso di Barack Obama conquista Parigi. In principio fu una giovane artista con studio nell'undicesimo arrondissement d'Oro di Polly a usare le foto dell'allora candidato democratico come modello e la galleria si riempì di tele col sorriso ammaliante del senatore dell'Illinois. Dopo la storica elezione del primo afroamericano, il profilo del neo presidente ha conquistato anche la Rive Gauche, così tra le finestre Liberty di Rue de Seine, poi allontanandosi dalla Senna giù verso Boulevard Saint-Germain, qua e là si scorgono pennellate che tratteggiano il viso di Barack Obama, grande, sempre sorridente, ben in evidenza su tele dai mille colori, come sulle centinaia di magliette e tazze, nuovo souvenir di una Francia che si risveglia in piena Obama mania. Questa faccia un messaggio, recita la scritta su un grande manifesto artistico, e sotto la Tour Eiffel il primo messaggio è che Parigi s'engagé tentando di importare nei propri arrondissement il sogno possibile di Barack, laddove ancora vivo è il ricordo delle rivolte delle banlieue. L'appello per un'uguaglianza e un'integrazione reale d'ora in ora viene sottoscritto da sempre più intellettuali che hanno apprezzato la pubblica presa di posizione della Premier Dame Carla Bruni, che ha ricordato come già la Francia abbia votato un presidente figlio di un padre immigrato ungherese e madre di origine ebraica. Ma intanto la nuova era del sogno possibile inizia in Europa ancora una volta con gli artisti, ma stavolta e forse per la prima volta adottando un'icona in carne ed ossa. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sullo sciopero selvaggio di piloti e assistenti di volo all'Italia. L'ipotesi di reato è interruzione di pubblico servizio. 25 oggi le cancellazioni di voli a Fiumicino, molti ritardi. L'agitazione dovrebbe terminare alle 18. Tremonti alla Camera. La finanziaria è basata sul presupposto di una crisi in arrivo e in intensificazione. Comunque, ha aggiunto il ministro, l'Italia manterrà nei prossimi 3 anni un rapporto fra deficit e PIL al di sotto del 3%. Il Vaticano dice sì all'utilizzo di cellule staminali da cordone ombelicale, secondo al prelievo dall'embrione. Vale per tutti, fa sapere la Santa Sede, anche per gli Stati Uniti. Delitto di Niscemi, condannati a 20 anni i 3 minorenni che uccisero Lorena Cultraro. Rapporto Sos Impresa di Confesercenti, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita hanno fatturato quest'anno circa 130 miliardi di euro. In crescita le imprese che si rivolgono agli usurai, 180.000 nell'ultimo anno. È attesa fra oggi e domani la decisione della Cassazione sul caso di Eluana Englaro. Il procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto che venga respinto il ricorso contro il decreto che autorizza a interrompere l'alimentazione forzata. Mentre la maggior parte delle carceri italiane sul punto di esplodere, ad Arghillà, periferia nord di Reggio Calabria, c'è un penitenziario nuovo ma vuoto. Completato nel 2005 e praticamente pronto ad ospitare fino a 300 reclusi in celle da 2 a 6 detenuti, non può aprire. Perché? Perché manca la strada di accesso. È costato 90 milioni di euro e ne costa 2,5 all'anno per custodirlo. Maria Luisa Pezzali ha fatto il punto della situazione con Paolo Quattrone, provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Calabria. Provveditore, un carcere nuovo di zecca, pronto dal 2005 e tuttora inoperativo. Perché? È stato al riguardo proprio nominato un commissario straordinario, l'ingegnere Grimaldi, per l'ultimazione dell'opera. Per quanto riguarda i possibili interventi risolutivi, il commissario straordinario, che è competente in materia di edilizia per accelerare i tempi di ultimazione dell'opera, deve effettuare degli interventi e ottenere finanziamenti al riguardo. Quindi il comitato interministeriale deve assegnare i fondi per l'ultimazione dell'opera. I fondi richiesti ammontano a circa 16 milioni di euro, quindi bisogna realizzare la strada di accesso alla struttura penitenziaria e completare parte dell'istituto. Quindi i tempi, secondo me, di attuazione per finire l'opera potrebbero essere quelli di 24 mesi. Di chi è la competenza? Ministero della Giustizia o delle Infrastrutture? Tutto è di competenza delle Infrastrutture, perché il Ministero della Giustizia non può entrare nel merito della costruzione dell'opera. A noi le carceri ci vengono date chiavi in mano dal Ministero delle Infrastrutture. Quindi se verranno stanziati i finanziamenti, l'opera potrà essere realizzata in tempi abbastanza rapidi. Il commissario Grimaldi, commissario straordinario per il completamento dei lavori, però ora minaccia le dimissioni. Non gli sono stati date le risorse finanziarie, evidentemente non può attivarsi per il completamento dell'opera. L'opera è già costata 90 milioni di euro, possibile che ne servano altri 20? Sì, perché questa è una situazione che ormai si trascina da troppo lungo tempo. Perché l'esigenza di realizzare proprio questa casa di reclusione nel territorio della regione Calabria fu rappresentata già nel lontano 88 dall'Istituto Penitenziario Reggino. Non avendo delle case di reclusione in Calabria, se non alcune sezioni, e ultimamente abbiamo attivato la casa di reclusione di Rossano, e nel territorio reggino si avverte proprio l'esigenza di avere un carcere che possa assicurare la territorializzazione dell'esecuzione penale. Tra l'altro, la situazione di sovraffollamento che investe tutte le strutture penitenziarie della Repubblica consiglia anche che in tempi brevissimi venga attivato questo carcere. Di fatto è l'ennesimo simbolo di una storia di denaro pubblico sprecato. Ma infatti, guardi, io innanzitutto lo dico da cittadino che pago le tasse, io gradirei che questa opera venisse realizzata nel più breve tempo possibile, perché se no diventa una delle tante incompiute delle strutture pubbliche. Noi abbiamo nel territorio in Calabria, come ritengo anche nelle altre regioni d'Italia, scuole mai attivate, ospedali mai attivati. Le faccio un esempio: uno degli ospedali che non è stato mai attivato se non per un brevissimo periodo è stato il Mognara Geraci, che voleva essere, qualche anno addietro avevamo proposto al sindaco che venisse rilevato dall'amministrazione penitenziaria. Quindi noi auspichiamo che Arghillà, prima che l'immobile si degradi, perché andrà incontro a un degrado assoluto, dato che non vi è alcuna manutenzione, venga nel più breve tempo possibile aperto. Per custodirlo vuoto si spendono 2 milioni e mezzo di euro, soldi che vanno all'impresa che l'ha costruito. Com'è possibile? Ma questo non glielo so dire l'importo preciso, perché noi non possiamo neanche entrare nella struttura penitenziaria se non ci viene consegnata. Quindi allo Stato, quella struttura, c'è un cantiere, quindi l'impresa custodisce, ha dei rappresentanti che custodiscono questo cantiere. La cifra la danno i sindacati, 2 milioni e mezzo di euro appunto. Io non sono in grado di confermarglielo questo, qual è l'importo per la custodia dell'immobile, non glielo so proprio dire. Come definisce l'intera vicenda? Questa è l'ennesima travagliata storia. Io spero che venga apposta la parola fine a questa telenovela, anche perché questa struttura avrebbe una valenza altamente simbolica, oltre che pratica, perché verrebbe realizzata in un territorio che è bisognevole di particolare attenzione da parte delle istituzioni. Come la posso definire? È una storia paradigmatica delle difficoltà che il sistema pubblico incontra nella realizzazione di appalti ed opere. Beh, più che paradigmatica, forse allucinante. Era Paolo Quattrone, provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Calabria. La vicenda, la ricordiamo, è di un carcere con 300 posti nelle vicinanze di Reggio Calabria che non è ancora stato aperto, nonostante sia completo dal 2005, perché manca la strada di accesso. Restiamo in qualche modo a parlare di carcere, ma andiamo in un carcere birmano, quello dove finirà un blogger birmano. L'ultimo post del suo blog è datato 22 gennaio 2008. Il 29 gennaio, per Nathan Lat, che aveva raccontato la repressione dei militari contro le marce pacifiche guidate dai monaci buddisti, è arrivato l'arresto. Le blogueur Nathan Lat, figure marquante du soulèvement populaire de septembre en Birmanie, a été arrêté la semaine dernière par la junte militaire. Ieri Nathan Lat è stato condannato a 20 anni e 6 mesi di reclusione con l'accusa di aver messo in rete una vignetta che aveva per oggetto il leader della giunta militare, il generale Tan Shwe. Il blogger ha 28 anni ed è un ex esponente del partito di opposizione, la Lega Nazionale per la Democrazia, che fa capo a Aung San Suu Kyi. L'organizzazione Reporters Sans Frontières e l'associazione dei media birmani si sono detti disgustati dalla condanna di Nathan Lat e hanno lanciato un appello alla solidarietà da parte dei blogger di tutto il mondo, sostenuti da associazioni in rete come Committee to Protect Bloggers.org e Burmese Bloggers Without Borders, che raccoglie scritti e testimonianze in video di quello che è successo e sta succedendo in Birmania. Ma Nathan Lat non è l'unico condannato in questi giorni. 23 oppositori arrestati durante le manifestazioni antigovernative di agosto e settembre sono stati condannati a 65 anni di carcere ciascuno. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Sinistra la riscossa in tutto il mondo, da Washington a Trento. È la pena al veleno della Iena sulla Stampa, che commenta così la vittoria del centro-sinistra nella provincia autonoma. Lorenzo Dell'Ai del Partito Democratico è stato confermato presidente dunque della provincia autonoma di Trento con il 57% delle preferenze e l'inedito appoggio dell'UDC, che non era presente con una lista sua per un'irregolarità formale. Il candidato di PDL e Lega si è fermato invece al 36,5%. La Iena mette insieme dunque Washington e Trento, ma a ragionare soprattutto su quel che accade oltreoceano con la vittoria di Obama e tutta la sinistra italiana. E allora sentiamo l'intervista a Fausto Bertinotti realizzata da Daniela Binello. L'euforia per Obama può far ripartire il centro-sinistra in Italia? Il centro-sinistra è morto, il centro-sinistra così come l'abbiamo conosciuto. E la sinistra è oggi sostanzialmente inesistente in Italia e a rischio in Europa. Nessun effetto Obama? Indubbiamente uno non può sottrarsi al peso che avrà nel corso della storia un presidente nero per gli Stati Uniti d'America. Ma appunto da qui però non ci viene alcun elemento salvifico per noi e per la sinistra europea. Cosa pensa dell'opposizione al governo? In Italia non c'è un'opposizione politica perché non c'è la sinistra. E il fatto che cresca una critica e un'opposizione sociale dotata di una sua autonomia anche rilevante, con linguaggi diversi e forme diverse, come il movimento di lotta sulla scuola, neanche questo movimento ti rimette in piedi. Lottare per la scuola non vale? Neanche alla Pantera assomiglia, non dico al 68 o al 77, ma neanche alla Pantera. Cosa deve fare la sinistra per rimettersi in piedi? La sinistra in Italia e tendenzialmente in Europa deve proporsi di ricominciare da capo il suo cammino, da capo, il che non vuol dire che non puoi attingere la storia, ma un conto è attingere e un conto è continuare. Continuiamo a parlare di politica spostandoci a Bologna, ma restando in ambito di centrosinistra. Sì, perché qui le primarie del Partito Democratico per le prossime amministrative si stanno già giocando di fatto su internet. La nuova frontiera, almeno bolognese, della comunicazione politica oggi si gioca su Facebook, il social network con il quale fino a ieri si intrecciavano amicizie, a volte qualche relazione, e si recuperavano vecchie conoscenze. I quattro candidati alle primarie del Partito Democratico, che nel capoluogo emiliano si terranno il prossimo 14 dicembre, hanno invece scelto il faccialibro come luogo principe della propria campagna elettorale. Così Flavio Del Bono, Virginio Merola, Maurizio Cevenini e Andrea Forlani pubblicano filmati, pensieri e parole sulle rispettive pagine, aggiornano i profili quotidianamente e attraverso Facebook stanno in continuo contatto con i giornalisti bolognesi, tutti immancabilmente presenti sul social network. Se le primarie si vincessero in base ai contatti accumulati, oggi a vincere sarebbe l'outsider Virginio Merola con 691 amici, tallonato da Del Bono con 638, Forlani con 374, mentre Cevenini, se Facebook avesse ragione, non avrebbe speranze con soli 230 amici. In realtà Bologna si prevede che il candidato sindaco, quello su cui scommette il Partito Democratico, è Del Bono e Merola è considerato come il sassolino nella scarpa del partito. Ma a volte i sassolini si trasformano in frane. E se così sarà, vorrà dire che Obama ha fatto scuola anche nella lontana Bologna e Facebook è la nuova frontiera della comunicazione, anche politica. Deborah Di Rani, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Le 13.35, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sullo sciopero selvaggio di piloti e assistenti di volo all'Italia. L'ipotesi di reato è interruzione di pubblico servizio. L'ENAC chiede che vengano forniti i nomi di chi non si presenta al lavoro. 25 oggi le cancellazioni di voli a Fiumicino, molti i ritardi. Tremonti alla Camera, nuove regole per le tariffe autostradali saranno adeguate in base agli investimenti. La finanziaria, dice il ministro, è basata sul presupposto di una crisi in arrivo e in intensificazione. Comunque, aggiunge Tremonti, l'Italia manterrà nei prossimi 3 anni un rapporto fra deficit e PIL al di sotto del 3%. Il Vaticano dice sì all'utilizzo di cellule staminali da cordone ombelicale, secco no al prelievo dall'embrione, lancia un avvertimento ad Obama, vale per tutti, fa sapere la Santa Sede, anche per gli Stati Uniti. Delitto di Niscemi, condannati a 20 anni, 3 minorenni che uccisero Lorena Cultraro, la ragazzina di 14 anni fu trovata a cadavere in una cisterna nelle campagne appunto di Niscemi. Rapporto SOS Impresa di Confesercenti, Cosa Nostra, Andrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita hanno fatturato quest'anno 130 miliardi di euro. In crescita le imprese che si rivolgono agli usurai, 180.000 nell'ultimo anno. È attesa fra oggi e domani la decisione della Cassazione sul caso di Eluana Englaro. Il procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto che venga respinto il ricorso contro il decreto che autorizzava di fatto a interrompere l'alimentazione forzata. Il nostro approfondimento economico di oggi è dedicato alla maturità attiva, ma non c'entra niente con la scuola o con il liceo. No, assolutamente, è un'espressione scelta dal rapporto Essere Anziano Oggi, edizione 2008, che fotografa un cambiamento che riguarda la terza età ed il suo rapporto con il lavoro. Lo studio è stato curato dal sociologo Nadio Delai e presentato oggi a Roma, ha scoperto che c'è una nuova disponibilità degli over 60 a restare in attività, si tratti di lavoro retribuito oppure no. Che potrebbe avere effetti positivi sul PIL. In caso di raddoppio graduale dei 60-69enni in attività, il prodotto interno lordo potrebbe crescere fra l'1,6 e il 2,3%. Sentiamo allora Nadio Delai al microfono di Paolo Piacenza. Già le persone mature di oggi, in particolare tra i 60 e i 70, ma anche talvolta oltre i 70, svolgono attività di lavoro pieno, interessante, nella misura oggi di 1 su 5 tra i 60 e i 70, il che vuol dire che c'è una potenzialità di vita attiva molto forte. Se poi si va loro a chiedere, ma voi pensate di prolungare questa vostra vita attiva? Beh, troviamo che la netta maggioranza dice sì, fino a quando sarò in grado di farlo. Quindi c'è una propensione a giocarsi il futuro sul piano lavorativo innanzitutto, poi naturalmente anche sul piano dell'attività di volontariato. Chi è andato in pensione comincia a pentirsi, tra virgolette, di essere andato troppo presto e capisce che essere un soggetto sociale attivo, vivace e riconosciuto richiede anche di svolgere un ruolo anche lavorativo e quindi c'è una disponibilità fortissima. E la cosa più importante non è prolungare il vecchio lavoro, ma è cambiare attività. Io sostengo che è importante che ci sia il limite pensionistico, ma poi uno si rigioca un altro giro. È possibile costruire un equilibrio economico che, mantenendo in attività una generazione che in teoria doveva andare in pensione, consenta per esempio di non chiudere degli spazi di lavoro? La risposta è secca, l'indice di sovrapponibilità, cioè di sottrazione potenziale di lavoro ai giovani, per decine di ricerche fatte in tutti i paesi, non è più del 5%, e questo si capisce perché una persona che ha un'esperienza di vita e di lavoro dietro le spalle e ha conoscenze di cose che un ragazzo giovane non ha. E veniamo al nostro viaggio nelle regioni dove sono terminati i fondi destinati alla sanità privata convenzionata, regioni nelle quali dunque i pazienti devono pagare per intero le prestazioni come analisi e radiografie oppure possono rivolgersi al pubblico ma spesso con lunghe liste d'attesa. Oggi il caso Sardegna. Roberta Pellegatta ha intervistato Paola Perisi, legale di molte strutture accreditate sarde. La situazione della regione Sardegna è una situazione peculiare perché da un lato abbiamo dei laboratori di analisi che si sono dotati di strumentazioni all'avanguardia utili per la diagnosi di alcune malattie rare e dall'altro invece abbiamo una regione che non considera questo e che ha imposto proprio dei tetti di spesa utilizzando peraltro degli strumenti giuridici non idonei, illegittimi come le delibere in assenza di un piano sanitario regionale, ha imposto dei tetti di spesa che non corrispondono assolutamente alle esigenze dei pazienti, nel senso che questi tetti di spesa vengono esauriti subito, non proprio in procinto dalla fine dell'anno. Ma quando dice che si esauriscono subito, cosa intende? Sì, subito, nel senso che non si arriva alla fine dell'anno, molte strutture le esauriscono anche dopo 5-6 mesi, ora vabbè, pendono dei ricorsi, però... Ecco appunto, così, voi avete fatto ricorso, sì, in qualche modo vi state muovendo allora, per risolvere la situazione? Guardi, c'è l'udienza, è fissata l'udienza di merito al TAR Sardegna, perché sono state impugnate tutte le delibere che hanno disposto i tetti di spesa, e l'udienza di merito è il 26 novembre, speriamo in un pronunciamento positivo da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, altrimenti comunque si ricorrerà in secondo grado al Consiglio di Stato per quanto riguarda l'aspetto dei ricorsi. Hanno tentato di uccidere la notte scorsa un barbone a Rimini. Gli hanno dato fuoco dopo avergli versato sopra una tannica di benzina. L'uomo stava dormendo su una panchina. Non si conoscono ancora le generalità dell'uomo. Potrebbe essere un uomo di 46 anni del Tarantino che da tempo staziona in città ed è noto a molte persone della zona. La polizia sta comunque indagando per capire che cosa ci sia dietro questo gesto. Ancora a cronaca, è arrivata questa mattina la sentenza sull'omicidio di Lorena Cultraro, uccisa a Niscemi ad aprile. 20 anni di reclusione ciascuno sono stati inflitti dal GUP del Tribunale dei Minorenni di Catania ai tre ragazzi che hanno confessato di aver ucciso lo scorso aprile Lorena Cultraro, la 16enne violentata e poi gettata in una cisterna nelle campagne di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La sentenza è stata emessa oggi al termine di un processo con il rito abbreviato. I tre assassini hanno un'età compresa fra i 15 e i 17 anni. Il corpo di Lorena venne trovato il 13 maggio scorso dopo vaste battute dai carabinieri. La ragazza, il giorno della scomparsa, era stata attirata in un casolare di contrada Giummarra dai tre ragazzi che l'avrebbero violentata a turno, ma gli imputati negano questa circostanza, e poi strangolata con un cavo della TV prima di essere gettata in fondo ad una cisterna. Il PM oggi aveva chiesto la pesante condanna a 20 anni per i tre imputati, sostenendo che i ragazzini agivano con premeditazione. Il GUP, oltre alla condanna, ha inflitto ai tre imputati l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Catania. E potrebbe arrivare fra oggi e domani un'importante sentenza, quella sul caso di Eluana Englaro, la ragazza in coma vegetativo da 16 anni. La Cassazione dovrà dire l'ultima parola sul lungo iter giudiziario. Nel luglio scorso la Corte d'Appello di Milano aveva autorizzato il padre di Eluana, Beppino Englaro, a interrompere l'alimentazione e l'idratazione forzati. Su questo decreto la Procura Generale di Milano aveva fatto un ricorso. Ora quindi la Cassazione deve decidere se ammettere o respingere questo ricorso. Se venisse respinto, il padre della ragazza sarebbe definitivamente autorizzato a interrompere l'alimentazione forzata. E c'è un'altra storia che farà discutere e che arriva dall'Inghilterra. Riguarda una ragazza inglese di 13 anni e doveva subire un trapianto di cuore, così avrebbero voluto i suoi medici. Se fosse andata bene, le avrebbe probabilmente salvato la vita, pur costringendola ad una vita di cure. Ebbene, lei ha preferito morire, così ha detto, morire con dignità a casa con i miei genitori. Ebbene, l'alta corte ha respinto la richiesta dell'ospedale dopo che l'ufficiale per la protezione dell'infanzia aveva accertato l'irremovibilità della ragazza nel non subire l'intervento chirurgico e dunque la ragazza morrà. Parliamo ora di libri. C'era una volta un re. No, mi sa che abbiamo sbagliato. Qui c'era addirittura un imperatore, Federico II di Svevia. E il bello è che il suo fantasma si aggira ancora per l'Italia, idolatrato dai suoi fan e trasfigurato dai suoi nemici. Questo l'incipit di Lo strano caso di Federico II di Svevia, scritto da Marco Brando e pubblicato da Palomar. Il problema è questo, che Federico II di Svevia in Puglia, dove io ho lavorato alcuni anni, è considerato un mito assoluto, è proprio un pilastro della pugliesità. Dal bambino all'anziano, dall'analfabeta al plurilaureato, considerano Federico II di Svevia patrimonio personale. Nel resto del sud Italia, diciamo che è stimato, ma non è amato così tanto come in Puglia. Mentre nel nord Italia, da cui io provengo, fin da bambino mi hanno insegnato che Federico Barbarossa, nonno di Federico II di Svevia e lo Svevo in questione, erano i nemici assoluti della libertà dei comuni durante il Medioevo, i comuni della Lega Lombarda. Perché dunque questa diversa visione dello stesso personaggio storico? Il problema è che il Sud, in particolare la Puglia, hanno bisogno di un'identità ben definita, forte, e diciamo che i pugliesi dei giorni nostri, che non sono i pugliesi del Medioevo, erano tutt'altra cosa, hanno trovato, per ragioni che racconto nel libro, che segue un po' il filo di un thriller per certi versi, hanno trovato in Federico un mito fondante. Nel nord Italia tuttora c'era bisogno di un nemico. La Lega Nord di Bossi ha trovato, dal punto di vista dell'immaginario collettivo, un bellissimo esempio nella rievocazione di spadoni medievali, battaglie medievali contro nemici più o meno identificati. E Federico II di Svevia, con suo nonno Barbarossa, si sono prestati molto a questo scopo. Diciamo che questo libro è il racconto di come un personaggio storico medievale come Federico viene usato più o meno consapevolmente nella società dei nostri giorni. E perché? E qual è il senso di questa scelta di usarlo ancora oggi come amico o come nemico o come addirittura come nume tutelare, cosa che succede tra i pugliesi. Sono le 13.47, questo è il GR Extra Large, le notizie della giornata. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sullo sciopero selvaggio dei piloti e assistenti di volo all'Italia, l'ipotesi di reato e interruzione di pubblico servizio. L'ENAC chiede che vengano forniti i nomi di chi non si presenta al lavoro. 25 oggi le cancellazioni di voli a Fiumicino, molti ritardi. Tremonti alla Camera, nuove regole per le tariffe autostradali, saranno adeguate in base agli investimenti. La finanziaria, dice il ministro, è basata sul presupposto di una crisi in arrivo e in intensificazione. Comunque, aggiunge, l'Italia manterrà nei prossimi tre anni un rapporto fra deficit e PIL al di sotto del 3%. Il Vaticano dice sì all'utilizzo di cellule staminali da cordone ombelicale, secco no al prelievo dall'embrione, e avverte Obama. Vale per tutti, fa sapere la Santa Sede, anche per gli Stati Uniti. Ed è attesa in giornata la sentenza della Cassazione sul caso di Eluana Englaro. In Inghilterra intanto fa discutere la decisione dell'Alta Corte che ha consentito ad una 13enne di rifiutare un intervento al cuore che le avrebbe salvato la vita. Delitto di niscemi, sono stati condannati a 20 anni i tre minorenni che uccisero Lorena Cultraro. Rapporto SOS Impresa di Confesercenti, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita hanno fatturato quest'anno circa 130 miliardi di euro. In crescita le imprese che si rivolgono agli usurai, 180.000 nell'ultimo anno. Andiamo in Iraq dunque per parlare del ponte Al-Aima di Baghdad. È un ponte che collega quartieri sciiti e sunniti separati dal fiume Tigre che è stato riaperto questa mattina al transito dall'esercito iracheno. Sentiamo un po'. Grandi emozioni qui a Baghdad per le riaperture del ponte di Al-Aima, teatro tre anni fa della più grande tragedia del dopo Saddam, una tragica calca che provocò la morte di 965 fedeli sciiti. Tragedia che scosse tutto l'Iraq proprio perché il ponte dei due imam, così lo chiamano gli iracheni, lega i due quartieri simbolo delle due principali confessioni del paese, Al-Avamia e Al-Kavemia. Oggi coloro che hanno scommesso sulla faida tra sciiti e sunniti hanno perso, lo ha detto il capo del piano di sicurezza per la capitale. Un importante segnale sulla strada della pacificazione, se non si sentissero ancora gli echi delle esplosioni delle autobombe che hanno ripreso con una preoccupante frequenza. Ieri la donna kamikaze che si è fatta esplodere a Bakuba, uccidendo 7 persone, era una bimba di 13 anni. Adib Fatah Ali, GR24, Sole 24 Ore, Baghdad. E dall'Iraq ci spostiamo in Congo, nel nord del Kivu. Gli sfollati sono ormai 1 milione. Molti vivono in condizioni miserabili nei campi profughi delle Nazioni Unite. Ma c'è chi vive anche peggio. Sono coloro che sono scappati dalla guerra civile, ma non sono stati registrati dall'ONU come profughi. In molti casi le organizzazioni non governative e il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, non sono nemmeno autorizzati a sfamarli. Padre Berugé André ne ha portati 30 all'interno di una chiesa sconsacrata dove però non hanno cibo. L'ho intervistato Roberto Bongiorni. Siamo scappati da Kibumba per sfuggire agli scontri tra i ribelli e l'esercito regolare. Ho portato la mia gente, 30 persone, in un campo profughi e poi da lì ci siamo rifugiati in una chiesa sconsacrata. Siamo qui da 3 giorni. Non abbiamo niente da mangiare qui. Non abbiamo niente. Non abbiamo cibo. Non abbiamo acqua. Non siamo registrati come profughi dalle Nazioni Unite perché i campi profughi erano troppo pieni. Perciò ogni giorno torniamo al campo e poi di nuovo nella chiesa. Siamo gli emarginati tra gli emarginati. E sempre a proposito di Congo, la missione ONU nel paese oggi ha denunciato che i soldati dell'esercito regolare da ieri sera stanno compiendo saccheggi ed estorsione ai danni della popolazione in una regione nell'est del paese. Andiamo in Francia. Ora, nei mesi scorsi ci sono stati parecchi sabotaggi di treni, oggi ci sono stati i primi arresti. Avanzano spedite le indagini sugli atti di sabotaggio contro le ferrovie francesi. Grazie all'intervento della Procura antiterrorismo, questa mattina sono state infatti arrestate 10 persone. L'ha annunciato il Ministero dell'Interno di Parigi, precisando che si tratta di militanti di un movimento anarco-autonomo di estrema sinistra. L'inchiesta era passata nei giorni scorsi alla Procura antiterrorismo in seguito ai gravi ritardi causati da ripetuti sabotaggi alle linee ad alta velocità. Sabotaggi che in Francia si verificano da circa 2 anni, ma non con l'intensità degli ultimi tempi. Insomma, un'escalation di atti ostili che lo scorso fine settimana era culminata con il blocco di 3 linee e il ritardo di oltre 200 treni. Igor Fiatti, GR24, Sole 24 Ore, Parigi. Abbiamo aperto questa edizione parlando di uno sciopero, quello selvaggio dei dipendenti all'Italia, che sta creando disagi in alcuni aeroporti, soprattutto a Fiumicino. Ora chiudiamo questa edizione del GR Extra Large parlando di un altro sciopero. Sì, quello della neve. Domenica 7 dicembre, proclamato da FILT, CGL, FIT, CISL e Will Trasporti per gli addetti agli impianti di risalita. Le sigle chiedono 160 euro lordi in più in busta paga in seguito al caro vita, proprio in occasione del weekend lungo dell'Immacolata, classico inizio della stagione invernale. Sono dunque a rischio anche le feste di Natale. A fine novembre, nuovo incontro tra le parti per scongiurare l'astensione dal lavoro. Anna Marino ha sentito Enzo Marcuzzi della FILT CGL del Piemonte. È una necessità impellente dei lavoratori del settore, perché evidentemente, vivendo in realtà che sono turistiche, ha dei costi il vivere normale che sono altissimi. Qual è la controfferta che vi viene proposta? A noi risulta un'offerta ufficiale di 50 euro a regime, cioè fra 2 anni. Quanti lavoratori coinvolge questo sciopero? In Italia diciamo che in stagione all'incirca ci sono sui 12.000-12.500 addetti, la maggior parte, oltre l'80%, sono lavoratori stagionali. L'auspicio dei sindacati è che tutte le stazioni d'Italia siano toccate, dal Piemonte al Trentino, l'Alto Adige, la Valle d'Aosta, la Calabria. È il primo sciopero che viene dichiarato nella storia dei contratti che si vanno a fare a livello nazionale, e chiediamo semplicemente un aumento orario che, se lei divide 160 per 172 ore, che è l'orario normale di lavoro nel mondo dell'impianto a fune, sono meno di 1 euro di aumento all'ora. La Procura di Roma apre un fascicolo sullo sciopero selvaggio di piloti e assistenti di volo di Alitalia. Autostrade, tariffe commisurate agli investimenti, annuncia il ministro Tremonti, che per la crisi promette aiuti alle famiglie. Una vignetta può costare 20 anni di carcere, succede in Birmania, un blogger finisce in manette. 180.000 sono le vittime in crescita dell'usura, la denuncia di Confesercenti. Delitto di Niscemi, condannati a 20 anni 3 minorenni che uccisero Lorena Cultraro. Canali aperti con i rapitori, si lavora per la liberazione delle suore sequestrate in Kenya. Mentre il PD riflette sul Trentino, partono su Facebook le primarie per Bologna. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Se volete scriverci potete farlo, extralarge@radio24.it, e riascoltarci www.radio24.it. Il GR è il prossimo alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.